Ti ho sentito teorizzare, insomma, comunque ti ho sentito esibirti su questa teoria dei normal men, e cioè dei normal one, forse, no? O men, adesso vedi tu, me la specifichi bene. Comunque, riferita ai quattro allenatori semifinalisti in questo mondiale. Mi pare un dato davvero interessante, cioè il fatto che siamo arrivati all'ultimo atto, quattro allenatori che non hanno praticamente mai dato un titolo di apertura a un giornale internazionale, perché né Tabarez con il suo modo molto compassato di analisi, anche con la sua capacità di stare in panchina in una maniera molto, molto elegante, così come lo stesso Joachim Löw, che è passato soprattutto su YouTube per un gesto magari non educatissimo nella partita contro l'Inghilterra, ma non, insomma, per il resto le sue dichiarazioni in conferenza stampa sono tutte abbastanza normali. Anche Van Marwijk, io credo che la maggior parte degli sportivi Van Marwijk nemmeno lo conoscesse prima di questo mondiale, non conoscesse il suo curriculum e la sua storia, che non è una storia particolarmente ricca di trionfi. E oltre anche Vicente del Bosque è un allenatore che fu mandato via dal Real Madrid perché era uno che non amava tanto stare davanti alle telecamere. Quindi, cioè, mi pare di notare, almeno in questo mondiale, una tendenza alla normalità da parte degli allenatori che poi hanno vinto. Cioè, i protagonisti di conferenze stampa scoppiettanti sono tornati tutti a casa.